All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi della cena dei regini, bentornati alla cena dei regini. Bravo! Questo entusiasmo, che felicità, che gioia! Mi chiamo Mario! Ecco, abbiamo il primo eliminato dalla cena dei regini. Mario. Questa gioia è dovuta al fatto che la prima puntata è andata benissimo, ci hanno seguito da ovunque, compreso il Messico in particolare. Troverò il nome del tizio che ci scrisse là. E da Dubai il nostro Manuel, che salutiamo con un applauso. Bravo Manuel! Anche tu sei Mario! Vabbè. Ricordiamo il sito www.ilbac.it e cliccate la cena dei regini per venirci a trovare. Adesso, mentre serviamo la pasta, iniziamo con la musica degli Avalanche con New Life. We'll be right back. della cena dei regini. Tornati alla cena dei regini mentre stiamo mangiando quello che era un rollè fatto da me modestamente. Ed molto era buono. Buono, sì, sì, grazie. Molto buono, molto buono. Ho affinato, ho affinato. La forma di pesce. Ricordiamo. Secondo allitterazioni era a forma di pesce, ma vabbè. Ricordiamo il sito www.ilbac.it. Cliccate la cena dei regini per ascoltare la prima puntata ricercatissima sul web e poi per avere tutte le informazioni e la possibilità di iscrivere alla cena e per parlare delle vostre idee. A proposito di idee, cose realizzate, parliamo di quello che abbiamo fatto in questa ultima settimana. Settimana molto impegnativa, importante, ma al di fuori del discorso Ars. Quello che abbiamo fatto è stato principalmente la visita alle nuove location. Una location in particolare ci ha impegnato un pomeriggio assieme ad Anna qui presente per la visita di questo appartamento a Lazzaro. Vai Anna, cosa ti ha lasciato questa giornata? Dunque, abbiamo visitato questa casa che secondo me è molto utilizzabile. Perché? Perché ha diversi piani che si possono sfruttare, le stanze sono a diversi piani che si possono sfruttare, non so se si è sentito per via del brum. È caratteristica perché ha un paesaggio del tutto calabrese, ci sono limoneti, ci sono viuzze particolari fuori dalla finestra e possiamo dire che è appunto particolare perché si adatterebbe a molte storie di mistero. Esatto, quindi una location non per troppe persone, perché non per troppe persone, non è grandissima, però comunque è interessante, c'è qualche lavoretto di sistemazione da fare. Qualche lavoretto. E ne abbiamo parlato con i proprietari di questo discorso, però è stata una cosa bellissima. Ricordiamo tra l'altro il broom a cosa è dovuto, al fatto che registriamo vicino alla magnifica stazione. Sì. Perché siamo questa è Radio Verità. Esatto. Siamo sotto un bellissimo cielo calabrese, stellato, fantastico. E parliamo commensando. Registriamo la cena. Comunque volevo aggiungere che attorno a questa casa, che è molto particolare come ho ripetuto prima, ci sono le viuzze caratteristiche di Reggio. Quelle piccole, quelle strette, piccole da cui si passa. Sì, dove se non stai attento ricevi le gocce dei panni delle signore oppure le schizzate d'acqua. Di questo torneremo dopo a parlare. Dove si le viuzze in cui si infilano gli assassini per far perdere le loro tracce. Esattamente. Non lo sai, ma hai fatto uno spoiler. Quindi questa è la visita alle location. Ho visto altre due location a villa interessanti, ma molto da lavorare, quindi devo prendere dei contatti un po' così. Tra l'altro sul sito abbiamo lanciato anche l'annuncio per chi vuole proporre le sue location, che sia una casa, un locale, un terreno, qualsiasi cosa, purché sia libero da... Stavo per l'appunto parlando con loro a proposito di un'altra possibilità di location con lei. E noi la andiamo a visitare e vediamo se è possibile realizzare qualcosa lì. In questa settimana, altra cosa importante che è sulla Dall'Ars è il successo dei racconti della città di Cri. Questo racconto che ho venduto tramite il mio sito, ho venduto un po' di copie. Adesso stiamo per mandare il bonifico ai ragazzi dell'associazione Scuola di Pace per dargli il loro quanto abbiamo raccolto. Quindi una cosa bella. Questa operazione avanti e continuerà anche dopo, quindi se visitate il back.it e andate sullo shop potete comprarlo online, tra l'altro anche tramite PayPal, che mi hanno suggerito come metodo di pagamento più veloce. Assolutamente veloce e sicuro, decisamente. Adesso continuiamo con la musica. Mark Reeves in Remember Me. Thank you. La cena dei regini. Tornati alla cena dei regini, parliamo delle cose da fare nella prossima settimana. Innanzitutto vedremo nuove location, andremo un po' in giro a vedere le nuovi posti che hanno segnalato tramite il sito e poi riprenderemo la giornata della sessione GDR cartaceo. GDR cartaceo che cos'è essenzialmente? Così come cos'è l'ARS, quello che facciamo. Ci si trova tutti intorno a un tavolo, una via di mezzo tra il gioco della società e l'improvvisazione teatrale. Ognuno interpreta un suo personaggio e manda avanti una storia immaginaria che si scrive giocando, che quindi sarebbe live di Camelot da settati proprio alla calabrese, sì. La regina non mi so. C'è la regina. Taglia. Esatto, faremo comunque queste serate di improvvisazione teatrale sedute a un tavolo praticamente. In più, questo è il giovedì, e sempre il giovedì per questa settimana faremo un laboratorio di creazione di strumenti e costumi vari per prepararci al grande evento del giorno 30. Il giovedì laboratorio il pomeriggio per creare spade, costumi e via dicendo. Il giorno 30 saremo alla fiera della decrescita di Gallico per fare una giornata dalla mattinata fino alle 2-3 del pomeriggio di torneo con le spade. Andrea? Non portate i vostri bambini. Se li portate, fateli combattere contro Nico. Perché? Ma Andrea, ma a te chi ti aspetta il 30? Dillo. Chi è che ti ha scritto? Jimmy ti aspetta. Ma certo, ma mi ha scritto tre settimane fa. Jimmy ti aspetta, ti vuole sfidare. Allora, Jimmy era il pollo gigante da guerra che era la mascotte del mio forum. Al momento non mi ricordo chi è Jimmy. Ecco, Jimmy era un amico che ci è venuto a trovare l'ultima volta che siamo stati alla fiera della decrescita. Quello che mi ha pissato al sangue. Non dice, non ricordi bene. Ecco che si riaprono i cassetti della memoria. Sì, ma non ti ha proprio pestato a sangue, cioè ti ha fatto vedere che comunque era pratico con la spada e ti ha detto ritornerai. Ora tu ritorni e ti becchi Jim. Sarà ma possiamo farlo combattere contro Nico, che è un avversario più alto. Ma Andrea, Jimmy ti aspetta, ti ha scritto tramite il sito, dai. Salutiamo Jimmy invece. Ciao Jimmy, ti aspettiamo anche noi. Pure l'applauso per cercare di imbonirsi Jimmy, ho capito. Comunque 30, grande giornata. Mettiamo insieme qualche scenografia, qualcosa di carino per questo giorno e affrontiamo Jimmy e chi ci vorrà sfidare, giusto? Carichi ragazzi, a parte i bambini che sono l'incubo di Andrea. Adesso è Yitzis con Stupid Games. We'll be right back. Ragazzi, è la cena dei regini. Ricordiamo, sul sito www.ibac.it cliccate la cena dei regini per venirci a trovare, vedere, ascoltare le puntate precedenti e più partecipare alla trasmissione. Ora l'angolo delle notizie con l'uomo della strada. L'uomo della strada in questo momento non è qui presente, però, come dire, abita in tutti noi, siamo tutti un po' uomini della strada, e quindi iniziamo la rassegna delle notizie. Una notizia particolare è la dichiarazione di questo Sergio Canavero, che dichiara: tra un paio di anni saremo in grado di effettuare un trapianto di testa. Quindi tra un paio di anni, quindi pochissimo, questo neurochirurgo, tra l'altro noto per aver svegliato nel 2008 un ventenne in stato vegetativo comatoso con l'elettrostimolazione, quindi c'è uno che mastica la situazione, dice che sarà in grado di prendere una testa, montarla su un altro corpo. Una cosa fantastica. L'importante è non sbagliare testa, perché se prendo una testa di quelle che ne conosco io, quindi infatti, diventeremo teoricamente immortali. Sì. Molti zombie saranno felici di questo. No, perché no, ci perché sarà per meno loro, ci sarà meno. Mi ricordo un videogioco, non li faccio un caso, che c'è appunto la testa del ragazzo, la testa del ragazzo, la protagonista, sì, che è preso al ballo, gli ha fatto un incantesimo, praticamente, cioè, la testa si può cambiare tranquillamente il corpo. Sì, fantastici, è vero. Questo si è preso di ispirazione da questo videogioco bello. E tra l'altro stanno nascendo già in queste ore delle preoccupazioni, perché il rischio è proprio che magari chi è ricco e facoltoso, tac, trapianto di testa e via. Però immagino che comunque le cellule cerebrali prima o poi arriveranno alla loro fine, sì, comunque. Sì, sì. Però potrebbe essere un grande aiuto per chi nasce con magari deformazioni, o chi viene colpito da una malattia che magari lo costringe a una sedia a rotelle o un letto d'ospedale. Vediamo delle cose positive, certo. Ovviamente speriamo che non si usino corpi umani di altre persone per fare questa cosa. No, certo, secondo prenderanno corpi umani di animali. Animali prenderanno quelli di altre persone. Però ma sarebbe meglio usare dei corpi umani robotici. Capisci? Sì, ma credo che questo qua sia una cosa che lui lo fa da umano a umano. Cioè, fa proprio lo scherone che lo ammazza. È schifo. È un po' come il trapianto di organi. Sì. Devi trovare quello compatibile e via. Sì. Sto cercando di fare una battuta. Esatto, Frankenstein. Una cosa che invece non si può fare è avere privacy su Facebook. Avete ricevuto anche voi la mail che avvisava che il vostro numero di telefono e qualche altro dato sensibile era stato diffuso per errore da Facebook a praticamente tutti. C'è stata una falla nei giorni scorsi, per cui qua non lo spiega, ma erano circa 6 milioni di indirizzi Facebook, per un tot di tempo erano accessibili a tutti indistintamente per un errore dei sistemisti. Questa è una cosa fantastica. Con questa gravità sì. Così no. Tutti riceveranno messaggi. Però è carino, a me è arrivato, voi no. No, io non ho messo il numero, non mi ha messo il numero. No, no, ma in generale, quello che mettete, ti arriva un messaggio dove diceva: caro utente, ci teniamo alla tua privacy, sappi che abbiamo diffuso, siete che vostri hanno bucato solo il mini. Ragazzi, mi dispiace, d'altro Batti, sei troppo famoso. No, hanno beccato l'indirizzo che era già sul sito, quindi comunque non mi hanno fatto danni a livello personale. Ha messo poi che c'è anche questo, cioè, la questione è proprio questa. Vabbè, alla fine come? No, quello è passato. Bisogna andare avanti. Però è carino il fatto che hanno mandato questa mail per dire: guarda, abbiamo sbagliato, abbiamo dato il tuo numero a tutto il mondo, però ci dispiace per averlo fatto. E beh, la trasparenza, la trasparenza. Digli, sbagliato ancora. Fidiamoci di Facebook e degli errori. Ma soprattutto, a proposito di errori, c'è questa scuola in Gran Bretagna, la Oxford High School di Oxford, che è una scuola che insegna a sbagliare, dove il motto è: sbagliare si può, come insegna come giusto ad accettare gli errori e come non è sempre possibile ottenere il massimo. Inglese. Meglio imparare a fare i conti con errori e fallimenti. esperienza, il nome che chiama il nostro errore, quindi... Eh? Oscar Wilde diceva che l'esperienza è il nome che diamo ai nostri errori, quindi è sicuramente secondo questa filosofia. Però è carino perché stanno accettando ragazzine di 11 anni, ragazzi di 11 anni per insegnargli questa teoria, per cui appunto la, lo sbaglio non è un problema. Carina come cosa. Accettare comunque il fallimento, accetti l'errore. Che sarai un pezzo di schifo tutta la vita. Invece è il contrario, se tu accetti comunque che hai fatto un errore, già è il primo passo per eventualmente porre rimedio o cambiare comunque strategia. Sì, comunque diventi più saggio. Sì. Ma anche se tu pensi che l'errore non sia il punto di fine, ma il punto di inizio per poter migliorare. Alla fine se uno non vede il fallimento, tipo ho fallito, mi devo buttare giù, ma ho fallito, bene, la prossima volta mi andrà meglio. È vero. Anche questo potrebbe essere. Bello, questo punto di vista perché è comunque... Ma spesso c'è la mania del perfezionismo. I ragazzi che si uccidono perché si sbagliano tanto, non vengono lineati da professori di scuola e si uccidono perché hanno... Ma perché purtroppo è... Ma questo succede a causa dei genitori e della scuola. Se i genitori della scuola va a punire, quindi aiutare, è normale che accada. Cioè, ovviamente non dico che lo sbaglio deve essere premiato, ma per capire che se è sbagliato cerca di andare avanti. È uno sbaglio, non ho ucciso nessuno, né ha fatto chissà cosa. Ma poi io lo capire agli insegnanti di questo. Il problema è che a volte sono gli adulti che prima devono accettare l'errore. Quindi esatto. Consigliamo ai genitori questa scuola in... per loro, non per i bambini, per esatto, loro. Per sì, i genitori, ai genitori, assolutamente. No, è chiaro, anche perché arriva, entra in un'età, 11 anni, che è quella penso critica, cioè in cui sì, comunque il ragazzino arriva a confrontarsi con gli errori abbastanza seri, quindi può essere una cosa intrigante. Il fatto che la faccia da Oxford, poi che solitamente è rinomato come posto di eccellenza, è anche particolare una cosa. Se permetti, a Oxford insegnano anche Star Trek come materia. Star Trekologia? Sì. Trekologia. Oh, Oxford o comunque Università Britannica, non mi ricordo dove. Dove? Hanno inserito Trekologia come... Trekologia. Sì, c'è la materia che parla di Star Trek. Fantastico. Dobbiamo approfondire questa... Devo trovare tra le notizie. Notizie sicuramente a proposito di Star Trek acquisito dalla Disney come marchio recentemente. Mi sembra pure Star Trek ha preso, no? No, Guerre Stellari era. Guerre Stellari che sarà un grande film per famiglie e per bambini, purtroppo. La Disney ora c'ha la Marvel. Come è successo? Sì, la Disney ha fatto... L'avete visto il cartone della Marvel fatto da Disney con i personaggi che sono tipo cibi? Perfettando? No! Sì. Cioè, andate via. L'ho visto l'altro giorno, c'erano i personaggini tipo... personaggi degli anime, quelli piccolini ovviamente. Degli anime? No, è super... Sì, i personaggi di Marvel, infatti versione anime. Versione super kick. Sì. E vabbè, la Disney ha questo accesso, però una cosa buona l'ha fatta, cioè per combattere il fenomeno della pirateria sta diffondendo in streaming, per ora solo nel Nord Corea dove l'articolo, diffonde in streaming direttamente i film mentre sono ancora in programmazione delle sale. Mentre sono in programmazione delle sale. Sta facendo questo esperimento, come a dire, visto che comunque è possibile accedervi dopo, no? Tramite gli streaming, sì, penso anche dopo. Loro lo danno accessibile tramite il loro sito, che è una cosa secondo me geniale. Almeno ci guadagnano un po' perché di accessi. Perché guadagnano in pubblicità. Certo. Giustamente, dice, anziché fare guadagnare gli altri... Però guarda, farlo durante la programmazione non lo so quanto possa convenire al cinema. Cioè, farlo subito dopo sarebbe una genialata. Cioè, esatto. Vuoi andare al cinema, vai. Il cinema poi ci perde. Per appunto. Ma loro puntano ai cosiddetti, come li chiamava qua, clienti portoghesi. Cioè, quelli che comunque non pagherebbero per andare al cinema. Come ovviamente ce ne sono. Clienti portoghesi. Allora dice, anziché andare a dare soldi a quei siterelli di streaming, li date direttamente alla casa distributrice. Ma relativamente, perché alla fine se tu lo cerchi in streaming dopo, alla fine la qualità non è delle migliori. Quindi il cinema è sempre conveniente, però lo danno in streaming in buona qualità. Ed è appunto, cioè se tu sei effettivamente interessato a guardare il film, comunque lo andrai a vedere al cinema. Ma anche se lo vedi in streaming, perché comunque la qualità fa schifo, eccetera. Quindi loro dicono, intanto ti fai un'idea, lo guardi in streaming dal nostro sito e poi eventualmente... In caso, se ti piace, certo. Se ti piace, va. E questo è un metodo alternativo che sta... Sì e no. Prendendo parecchio. Guarda, effettivamente... Sto notando che la cultura teodomeno gratis sta prendendo abbastanza piede. Sì, tantissimo. Guarda, alcuni artisti, alcuni cantanti erano a favore del... tra virgolette della pirateria, cioè dello scambio delle loro canzoni su internet, perché dice io sul disco ci guadagno poco e niente, ci guadagno quando faccio i concerti, quindi se tu ascolti le mie canzoni, ti piacciono e vuoi venire a un mio concerto, io sono contento. Se esatto. Tu non compri il CD perché comunque costa, non mi conoscerai mai, non verrai mai a un mio concerto. Esatto, poi c'era anche il problema che sul disco l'artista ha veramente pochissimo, tipo un 5%. Sì, appunto, ci guadagnano poco e niente, perché quindi... comunque, a volte è una quota fissa, a prescindere dalle copie che venderanno. E poi si sa, comunque sui dischi è tutta un'altra cosa rispetto a un concerto dal vivo. L'emozione che si ha dal vivo è totalmente diversa. Corea del Sud, l'hanno provato in Corea del Sud iniziando da Ralph Spaccatutto, Brave e Django Unchained. Cavolo. Una cosa fantastica, cioè ragazzi. Però The Brave era brutto. No. Sì. Adesso l'angolo piccante, così detto, quindi ragazzi, partecipazione mi raccomando, perché il Viagra rosa è addirittura d'arrivo, mentre il Viagra blu, quello maschile, va incontro alla riduzione dei prezzi perché è finito il brevetto, quindi adesso sarà... open source. Ottimo. La soluzione ai problemi di tutti. Arriva la no. quasi. Quasi. Stai calmo. Bene, tu uomo semmai. La parità farmacologica, come si dice, è addirittura d'arrivo e quindi ci sarà anche il Viagra rosa. Una cosa che veramente sconvolge perché il colore. Ma il Viagra rosa perché? Non ho capito. Ma il Viagra perché per le donne, cioè per aiutare la allora che fa? Scendiamo nei effettivamente... giocano a carte meglio però. Ti spiego, il Viagra è blu per gli uomini, ha una funzione, vabbè, sì, che si nota, voglio dire, sì. Il Viagra rosa nelle donne a che serve, che fa? Serve a quelle che passano la vita. Notiamo che Andrea è molto tecnico, comunque questo linguaggio proprio scientifico fa capire allora a tutti che lui ha proprio uno studio alle spalle per far capire, cioè, che proprio si è applicato su queste cose. Andrea, tu hai partecipato anche allo studio, quella vero? Quella scatolina che c'è nella tasca, che cos'è, scusa? Fa vedere. È una bomba. È casa tua. Ti incendio casa. No, ti brucio la casa. No, tu mi bruci la casa, io te la incendio. Ma io non ti incendio la casa, io ti ho già incendiato la casa. Vabbè, stavamo comunque dicendo, tra questo confronto molto maschile tra incendiarsi casa, il punto è quello, inventare una pillola che comunque può venire incontro alle donne più anziane, ma anche essere il vero problema, come spiegava l'articolo, è effettivamente proporre alle donne qualsiasi cosa che non sia solo il contentino psicologico come è stato fin qua, e quindi pare che questa volta funzioni. Bellissima sta cosa, anche perché è un po' come pareggiare i conti tra virgolette tra le defianze maschili e quelle femminili, e quindi è molto bello. Bizzarro, azzarderei. Vedremo come andrà a finire. Sì, infatti. Pensateci. No. Ne discuteremo. Che tono minaccioso. E su poi questo proviamo, silenzio. Tu prendi quella rosa, pusha. No, ti ricordo che abbiamo comunque un troll e un mezzelfo. Per fare notare queste cose. No, non dovevi dirle in radio, adesso lo sento. non sa nessuno di cosa stiamo parlando. Lo vedremo il mese prossimo. Capiterà. Venite ai live anche se sentite queste cose, mi raccomando. Ragazzi, adesso i Creative Condoms per Last Man Run. Regini www.ilbac.it, cliccate la Cena dei Regini e veniteci a trovare anche virtualmente. Siamo arrivati all'angolo della nostra classifica. Questa settimana una classifica molto speciale che ho intitolato Tutto il mondo e paese anche d'estate. Yes. Classifica particolare viene dall'America e sono le 23 cose peggiori per chi vive a New York d'estate. No. Ci saranno colpi di scena, ragazzi. Allora, al 23° posto i cattivi odori in metropolitana, taxi e dappertutto. quindi comunque chiaramente è un problema comune a molti. Vabbè, non solo in New York, nel mondo, non fa notizie. 21 e 22esimo posto, capire come acquistare un impianto di aria condizionata. 22esimo posto, cercare di installarlo senza farlo cadere fuori dalla finestra. C'è questa foto del tizio che l'aveva attaccato col nastro americano, insomma. Cioè il fai da te su queste cose non è proprio il massimo. Non è il massimo, è il massimo. E qui non c'è niente. 20esimo posto, non avendo voglia soldi per andare a Hamptons, ma strana sensazione di andarci comunque, cioè nel senso Hampton è questo posto negli Hamptons, questo posto per miliardari e via dicendo, scrittori in particolare, dove si è soliti andare d'estate, tipo una specie di Hawaii nel circondario di New York. Non hai i soldi e la voglia di andare, però la strana pressione che senti di voler andare comunque, una specie di nostra Gambari estiva. Ah, ora ho capito. Un centro di cose. 19esima posizione, quella là, lo spoiler di prima, e questa è anche universale: la goccia che ti cade addosso mentre cammini su un marciapiede e ti fa domandare: è questo liquido che colava su di me solo pioggia, aria condizionata o pipì? O acquaraggia. Che cos'è che buttano per pulire cose, come si chiamano? Acquaraggia, sì. Per pulire cose? Per pulire i bocconi. L'acquaraggia. Delle volte ti capita che ti cade l'acquaraggia addosso. Non passatevi sotto casa, ok. È bello quando cammini, senti il clown e dici e comincia a sciogliere, okay. Tipo Aldo Giovanni e Giacomo. Perché sto diventando biondo? Sarà pioggia, sarà condensa. Questa o sarà candeggina. Superman. Infatti io evito gli schizzi proprio alla Matrix. 17 e 18esimo posto, un classico: non avere l'aria condizionata in tutte le stanze. 18esimo, 17, averla solo nella camera da letto, in modo che quando andrai al bagno sarà come farsi una sauna. Non ci avevi pensato. No. L'hai messa in camera da letto. Guarda, adesso li staccherò da tutte le stanze e li metterò solo in camera da letto. Così fai l'iperinazione. Per avere la scelta se farti una sauna o meno. Certo, sì, assolutamente. La sauna è poi sempre desiderata. Cioè, metti l'aria condizionata in un bagno e in realtà no. Secondo voi una sauna ti metti in un bagno. Ha risolto. Abbiamo risolto tutto. Numero 16, questo è anche un po' uno strano. Molti turisti che fanno sembrare il caldo peggiore di quanto non lo sia. E qua mi vengono in mente i tedeschi quando vengono tutti vestiti con quei. Sì. Strano se sono sauna. Col calzino. Anche in inverno che vengono con i pantaloncini, infradito. I calzini sono sandali. Sempre il calzino sempre. Ma lo facevo anch'io, era comodo. No, Andrea, non fallo. È comodo, che ci devo fare? Vabbè, non lo faremo sempre. Scusa. Al numero 15, il caffè freddo. Scoprire che il caffè freddo è più costoso di quello caldo. Davvero? Perché? Perché te ne metto uno di più? Misteri del. Però è una bevanda talmente diluita. Comunque il caffè caldo è una preparazione che richiede di più. A me piace adesso effettivamente. Che ti piace? La gassosa al caffè. Infatti anche quella costa di più. Anche quella costa di più. Però c'è la anidride carbonica, c'è tutto il discorso. La bottiglia. C'è la bottiglia, c'è il tappo, c'è la carta. La bottiglia. C'è lo shift. C'è il controllante cancio. Sì, certo. 13esima e 14esima posizione, dover indossare quasi niente sul tragitto verso l'ufficio. E poi il congelamento una volta arrivato perché l'aria condizionata è stata impostata su Artico Freddo. Ah, ecco. Ma effettivamente è una cosa proprio pericolosa perché, ad esempio, dopo la risata, l'anno scorso Luke, che salutiamo, saluta Luke. Saluta Luke. Ciao. L'anno scorso ha avuto una paralisi facciale appunto per l'aria condizionata. perché aveva un collega di ufficio là, un vicino di scrivania, che aveva impostato l'aria condizionata a 15 gradi, una cosa del genere, e effettivamente con lo sbalzo di temperatura aveva avuto questo problema. Così faccio. È incredibile. Poi a me capita sempre, perché comunque arrivo allo studio tipo verso le 5, le 6, e quindi faccio tutto il tragitto anche in moto, non è più caldo, arrivo. Ecco. È terribile, questa qua è veramente dura. La numero 12 invece è tipicamente newyorkese. I bar sul tetto sono impressionanti, ma follemente affollati. Questo perché? Perché diciamo che loro, cioè noi a Reggio viviamo la notte in un quel ring di tre isolati per tre, come dico sempre io. Quindi dal Bart fino a Random, di questi così qua, là, tutta gente. Loro invece hanno questi bar sui tetti dei grattacieli e vanno tutti là. E quindi dice è bello, è anche suggestivo, però sono affollati, questo chiaramente per loro è un problema. All'11 particolare, nubi di aria calda a base di carne che si diffonde dalle bancarelle di cibo in strada, perché da loro c'è questa usanza di vendere il cibo alle bancarelle, e quindi cammini e ti becchi la nube di salsiccia. Certo, che d'estate sicuramente dà molto più fastidio che d'inverno. Un certo. Po' come alle sagre a Reggio. È vero, è vero. Tipo tu... a Feste Maronna effettivamente c'è ce l'abbiamo anche noi. La nube, la nebbia proprio di salsiccia. La nube di colesterolo è anche nostra. Tipo quando fanno le sagre a Gambari, noi vediamo la neve intorno e poi dove ci sono queste bancarelle c'è il deserto, tipo. Vero, bellissimo. Numero 10, non essendo in grado di fare qualsiasi cibo perché accendere il fornello o il forno trasforma il tuo appartamento in un inferno ardente. Cioè tu stai sul divano, già pensi a aprire il forno, fare le cose. Sì. No, perché altrimenti mi fidi scaldato. Prima notato, soprattutto se vivi alla Sudbach. Infatti prima abbiamo fatto questa esperienza anche. La numero 9, una cosa che unisce tutto il mondo, una cosa che preoccupa tutti, mostrare le pezzature al lavoro, cioè quell'alone sotto le parti particolari. La pezzatura, quando. Intanto quando ti. Ha capito. Ecco, è bastato indicare il punto che. Allora, io avevo un professore che aveva questo studente, arrivava la mattina alle 9 a lezione. E già effettivamente aveva le sue pezzature belle abbondanti. E già arrivava a luna che la maglietta aveva cambiato completamente colore. Professore di chimica, ecco. Che veniva a scuola con la maglietta rosa, metti una rosa tutta. Quello così, così, così, così. Oh. Ok, sono adatto. Terribile. Al numero 7, americana questa, aspettando la metropolitana, la sensazione di come si sta andando a morire. Per poi trovarsi nel vagone della metropolitana senza aria condizionata e quindi svenire contro il palo. Beh, non per forza americano. Vabbè, appunto. Non è regina, però anche in Italia. No, è regina, perché a me capitava quando viaggiavo in treno e sulla lettorina, sai, questi bei treni lunghissimi, pieni di accessori. No, c'è? Non esistono a Reggio Calabria. Esistono le lettorine, due vagoni, senza aria condizionata, senza le porte funzionanti. Ogni tanto dovevamo aprire proprio con i ferri, e lì quando stai bello compresso con tutte le altre 600-700 persone, effettivamente ti viene da svenire contro il palo. Anche gli autobus, dai. No, ma infatti la differenza è questa: che loro hanno un palo contro cui svenire. Ah, è vero. Noi abbiamo una bagnarota con un casco di banane in testa. Certo, ma che c'è lo scatolone, lo scatolone in equilibrio sulla testa, Dio. Sì, sì. Allora è meglio non rischiare. Oppure il vecchio che a pranzo ha mangiato cipolle e decise di andare al mare a bolo. E qua si ricollega alla numero 22. Beh, cioè la numero 6, secondo me qua ci stiamo tutti. Andare al parco perché è bello fuori e realizzare che l'intera città ha avuto la tua stessa idea. Questa è Gambari. Questo è Gambari. Gambari, da tre aie in poi. Sì, quando tu arrivi dici sarò l'unico, mi godrò tutto, la pinata, le cose eccetera, e ti becchi i ragazzini che giocano con i racchettoni, il tizio che butta la spazzatura là e non la raccoglie, e poi l'inferno. E quindi questa unisce già tutto il mondo, almeno. Il fumo delle salsicce. A me è come prima. Ti piace? No, una volta abbiamo trovato a Gambari una casa abbandonata piena di fazzoletti. Beh, meglio no. No, aspettate. E andando a Gambari c'era una di quelle zone di ristorazione, no? Abbiamo trovato una montagnola di spazzatura messa apposta. Cioè qualcuno aveva preso la spazzatura, l'aveva raccolta e l'aveva buttata lì, a montagnetta. Dentro questa struttura. No, no, così. Così. In mezzo agli alberi. Invece di disseminarla. Sì, perché persone ben educate che invece di buttare la spazzatura come le persone normali. La creatività dei regini volume 10. È bella questa cosa. Però non si sono impegnati, vuol dire, a fare un gesto. Così possono inquinare solo quel punto là. La numero 4, e qua già andiamo nella zona calda della classifica, è la paura di esserti perso qualcosa guardando su Instagram le foto da spiaggia dei tuoi amici. Questa è una cosa che penso capiti a molti di quelli che non hanno una vita sociale vera. Esattamente. Guardi su Instagram quello che è a Scilla a godersi il mare e dici perché io no. No, ma perché su Instagram fotografano anche i panini, che il pasto, gli occhiali. Cosa ho mangiato oggi? Lo permette da poco. Il sorrisetto cattivo sulla schiena della fidanzata. Sì, effettivamente c'è il problema di quelli che fotografano troppo e di quelli che non hanno niente da fotografare perché c'è un esco. E fotografo il panino dell'amico. Non è male, che... Bisogna portarsi a casa un trofeo, no? Sì, giusto. Poi ci sono quelli che pubblicano foto dell'arse. Ovviamente. Ecco, non fa mai male. Tra l'altro ho scoperto questo modo di dire FOMO in inglese, FOMO. Questa abbreviazione che io non conoscevo, che è la paura di esserti perso qualcosa. FOMO. Non la conoscevi alcuno? No, nemmeno io. Beh, mi sento meno ignorante adesso. Queste... Oh my god, e c'è anche FOMO. Ragazzi, terza posizione, siamo sul podio, una cosa che mi raccomando. Medaglia di bronzo. Il temuto sudore tette in zona tette. come ha anticipato lui, è una cosa che... Professore Frazzetta, questo è per lei. No! Dai! La scuola italiana che ci unisce, ci fa... capita ragazzi. E questa è in terza posizione addirittura. Vabbè, si può rimediare indossando magliette larghe. O mette con la stampa. Con la stampa, sì. Perché la stampa nera, tipo un'aquila. È bello. L'aquila che ti copre le pezzature. Cioè. E qui capiamo perché Andrea utilizza sempre maglie con la stampa. Il suo metodo antintrusione. Due no con la stampa. Ragazzi, non posso farvi sedere più vicini. Mi avete fatto una trasmissione. Ti brucio da casa. Tornando a vecchi racconti. Ti brucio le magliette. Ok. Te le viene nella casa. E quella cos'è? Allora, la seconda posizione. Sono due posizioni uguali al pari merito, perché sono i vari top knots che emanano l'odore dell'immondizia a caldo. I top knots sono quei grandi contenitori, come si dice in italiano? Cassonetti. No, sono i cassonetti che si attaccano ai camion, i cassoni, i cassoni dei camion. Loro portano l'immondizia là dentro e emanano questa immondizia che col caldo chiaramente è amplificata e quindi diventa ancora più insostenibile. E la foto anche era... i cassonetti, però. I cassonetti non normali. Soltanto che non abbiamo i cassoni. No. I cassoni. Ma la cosa bella è che evidentemente anche là hanno un problema analogo al nostro. Perché questo odore è aggravato dalla puzza proveniente dalle pozzanghere della strada, che mai si asciugano neanche con la temperatura di 90 gradi. Cioè, faceva vedere l'immagine, ci sono queste pozzanghere a New York che sono sempre attive, diciamo. Che sono piazze di olio. Hanno un materiale di scarico di qualche industria farmaceutica. Si evolvono pian piano. Eh sì. Hanno vita propria. Ha ragione, ci sono tante pozzanghere terme. Ma là sì. Se entri, no, entri in un Pozzanghere Eterna, è già Pozzanghere. Là invece c'è proprio la pozzanghera che gli resta tutto l'anno, non si capisce. Tanto infiltrazioni da sotto, eccetera. Sì, sicuramente. Ma la cosa più bella è anche un tocco di campanilismo commovente, perché l'ha scritto questo un americano. La conclusione è questo, a questa classifica, è quando pensi di averne avuto abbastanza di questa discarica sudata, ovvero New York, vedi una splendida vista da un tetto al tramonto e d'un tratto tutto sembra valerne la pena. Perché fanno il nostro stesso ragionamento. Noi non andiamo via da Reggio perché c'è Scilla, ci sono questi posti, certo, qua, Gambara, eccetera. Panorama, allora, il chilometro più lungo d'Italia, come ha detto qualcuno. Più lungo, infatti. Più lungo. Il chilometro più lungo, però, eh. Il newyorkese ha dentro questa veduta dal tetto, che dice io resto. E ragazzi, adesso Vittoria Caffè con Basi Days. E ragazzi, questa era la cena dei regini. Ecco, questa settimana abbiamo finito, raccattiamo tutte le cose e ce ne torniamo a casa. Aspettiamo la settimana prossima per un'altra cena, mangiare ancora, fare delle cose che speriamo siano interessanti. Mi raccomando, veniteci a trovare sul sito internet www.ilbac.it, cliccate la cena dei regini per seguire e interagire con la trasmissione, oppure sul sito trovate tutte le informazioni sulle cose che organizziamo con Lars o in generale. Tra l'altro, in questi giorni, come ho detto, saremo un po' in giro a vedere un po' di cose, a fare lo stand, e quindi ci potrete anche trovare in giro per la città. Detto questo, ragazzi, la cena dei regini, fate casino, fate casino, fate casino. Forza Lars! Mi chiamo ancora Mario! Uccidetelo! Ciao!